Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un po' cantautore dal look vintage, un po' rapper, tatuaggi sul volto, con Nella pancia della balena racconta il nostro periodo di lockdown. Samuel Aaron. Vivo molteplici sfaccettature, sicuramente. Ho vissuto molteplici vite, io lo dico, talmente tante esperienze, tante vite diverse che poi in realtà l'unione di questo percorso sono ciò che sono adesso e che poi sarò in futuro. In me c'è la parte del rap perché è il primo amore, c'è la parte del cantautorato perché il mare, no, la salsedine, la Liguria forse mi ha donato questo regalo. I tatuaggi perché insomma sono innamorato anche dell'aspetto estetico, dell'espressione estetica di quello che ero io. Sono sempre stato innamorato dei tattoo, anche quelli in viso, sono stato uno di, insieme al mio ex collaboratore, uno dei precursori artisti, diciamo, tatuati in faccia in Italia, e seppur adesso sono molto associati ad un fattore, no, legato all'urban, alla trap, in realtà io mi sono tatuato in viso nelle parti più visibili proprio per una mia esigenza personale, che però va molto di pari passo con la ricerca di quel gusto un po' vintage, chiamiamolo così. Che cosa è cambiato per te approdare a una major? Ma guarda, in realtà io sono figlio del un po' di quel mondo che è partito grazie al web, cioè totalmente indipendenti, con le poche risorse. Affacciarmi ad una major vuol dire avere un team di persone che credono nelle mie idee, seppur folli, seppur diciamo ambiziose talvolta. Questo cambia, avere più persone intorno che credono al progetto. Sai che mi manca. In traffico tornando la sera, il sabato la gente che sclera, balliamo nella pancia della balena, in una balena, e se c'è traffico ma chi se ne frega, sabato bel tempo si spera, balliamo nella pancia della balena, ripariamoci dalla bufera. Ripariamoci dalla bufera. Balliamo nella pancia della balena, ripariamoci dalla bufera. Ho trovato un cuore, io sono il veleno, tu sei la pozione, un problema, una soluzione. Ma che bello l'amore, il temporale con i lampi, la fatica, il sudore, i crampi, mille girasoli nei campi, sai oggi forse un po' mi manca. L'anno scorso eri triste, perché l'album si chiamava Triste. Sono sempre, non solo l'anno scorso purtroppo. Adesso c'è questo Nella pancia della balena, che è un singolo, che è uscito il 29 maggio, e intanto non sei da solo, hai trovato dei compagni di viaggio. Eh sì, sono salpati sulla mia scialuppa, diciamo così, no? La scialuppa del pirata. Allora, la tristezza è sicuramente uno dei lati del mio carattere, che mi ha sempre accompagnato e mi ha tanto condizionato nel mio percorso, veramente, nell'interfacciarmi con gli altri, nel vivermi anche la mia artisticità. Quindi io ho voluto l'anno scorso tirare fuori, no? Aprire un po' il sipario e dire io sono anche triste. Sono una persona anche così, come lo sono tanti altri miei colleghi, che però ovviamente magari cercano ancora di mascherare dietro questi aspetti più superficiali, ripeto, goliardici. Tutto il percorso anche dell'anno scorso mi ha portato ora a voler insomma far nuova musica, ed è stato l'incontro con i The Colors, sicuramente inaspettato, perché proveniamo da due mondi completamente diversi, sia musicalmente ma proprio anche esperienze di vita, e invece questa situazione di costrizione casalinga, perché il brano è nato esattamente nel pieno del lockdown, ha avvicinato queste due personalità particolari, quindi insomma eccoci qua. Ma mi racconti cosa significa ballare nella pancia della balena? Cioè, io ho cercato di fare questo parallelismo, cioè di comunicare come se la pancia della balena fossero le nostre abitazioni, che ci hanno inghiottito ma allo stesso tempo protetto, no? Da ciò che c'era fuori. E per rifarsi l'immaginario di Collodi, Geppetto va alla ricerca di Pinocchio e viene inghiottito dalla pancia della balena, e Geppetto poi ritrova Pinocchio, no? Quindi diciamo che un po' le nostre case spero abbiano avuto una funzione di questo tipo. Per me è stato così. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Samuel Aaron. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.